Terzo anello, ad alta voce. Il Conte di Montecristo, di Alexandre Dumas. Signori, disse Villefort con voce soffocata a D'Avrigny e a Morrel. Signori, la vostra parola d'onore che l'orribile segreto rimarrà sepolto fra noi. I due uomini trasalirono. Ve ne scongiuro, continuò Villefort. Ma, disse Morrel, il colpevole, l'avvelenatore, l'assassino. State tranquilli. Giustizia sarà fatta, disse Villefort. Mio padre mi ha rivelato il nome del colpevole. Mio padre ha sete di vendetta al pari di voi, eppure vi scongiura, come me, di conservare il segreto del delitto. Non è vero, padre mio? Noirtier fece risolutamente segno di sì. Morrel lasciò sfuggire un moto di orrore e di incredulità. Signori! Gridò Villefort, fermando Morrel per un braccio. Se mio padre, l'uomo inflessibile che conoscete, vi fa questa richiesta, è perché state tranquilli. Valentine sarà terribilmente vendicata. Non è vero, padre mio? E il vecchio fece segno di sì. Villefort continuò. Tranquillizzatevi dunque, signori. 3 giorni. Non vi domando che 3 giorni. È meno di quanto vi domanderebbe la giustizia, e fra 3 giorni la vendetta che mi sarò preso sull'uccisore di mia figlia farà fremere fin nel profondo del cuore anche gli uomini più indifferenti. Non è vero, padre mio? E dicendo queste parole, digrignava i denti e scuoteva la mano inerte del vecchio. Sarà mantenuta questa promessa, signor Noirtier? Domandò Morrel, mentre D'Avrigny lo interrogava con lo sguardo. Sì, fece Noirtier con un'espressione di sinistra gioia. Giurate dunque, signori, disse Villefort giungendo le mani di D'Avrigny e di Maximilien. Giurate che avrete pietà dell'onore della mia casa e che mi lascerete la cura di vendicarlo. D'Avrigny si voltò e mormorò un debole sì, ma Morrel strappò la mano da quella del magistrato. Si precipitò verso il letto, impresse le labbra su quelle gelide di Valentin e fuggì con il lungo gemito di un'anima che affoga nella disperazione. Villefort rientrò nel suo studio. D'Avrigny andò a cercare il medico municipale, che adempie le funzioni di ispettore dopo i decessi e che si chiama con tanta precisione medico dei morti. Noirtier non volle lasciare la salma di suo nipote. In capo a mezz'ora, il signor D'Avrigny ritornò con il suo collega e il medico dei morti stese il suo verbale sull'angolo di un tavolo nella stessa camera di Valentin e, adempita quest'ultima formalità, uscì, accompagnato dal dottore. Villefort li udì discendere e comparve sulla porta del suo studio. Con poche parole ringraziò il medico e, voltandosi verso D'Avrigny, «E ora?» disse. Il prete. C'è qualche ecclesiastico a cui desideriate particolarmente dare l'incarico di pregare per Valentin? Domandò D'Avrigny. No, disse Villefort. Chiamate il più vicino. Il più vicino? Disse il medico. È un buon abate italiano che è venuto ad abitare nella casa contigua alla vostra. Se vi aggrada, lo avvertirò passando. D'Avrigny, disse Villefort. Volete avere la bontà di accompagnare il signore? Ecco la chiave perché possiate entrare e uscire a vostro piacere. Condurrete il prete e lo guiderete alla camera della mia povera figlia. E il signore di Villefort, dopo aver consegnato la chiave ad Avrigny, rientrò nello studio e si mise a lavorare. Nel momento in cui scendevano le scale del giardino, videro un uomo in sottana nera che stava sulla soglia della porta vicina. D'Avrigny condusse l'abate Busoni fino alla camera di Valentin, della quale i becchini dovevano occuparsi soltanto la sera seguente. Entrando nella camera, lo sguardo di Noirtier aveva incrociato quello dell'abate e senza dubbio vi scorse qualche cosa di particolare perché non lo lasciò più. D'Avrigny raccomandò al prete non solo la morta ma anche il vivo e il prete gli promise di pregare per la morta e di prestare la sua cura a Noirtier. L'abate vi si obbligò solennemente. E appena D'Avrigny ebbe lasciata la camera, sia per non essere disturbato nelle preghiere e sia perché Noirtier non fosse disturbato nel suo dolore, andò a chiudere le serrature, non solo della porta dalla quale era uscito D'Avrigny, ma anche di quella che conduceva nell'appartamento della signora di Villefort. Danglars, nascondendo tutta la sua emozione, andò incontro all'amministratore generale con un sorriso stereotipato sulle labbra. «Buongiorno», disse, «mio caro creditore, perché scommetto che arrivate come creditore». «Avete proprio indovinato, signor barone», disse Beauville. «Gli ospizi si presentano a voi nella mia persona. Gli ammalati, le vedove, gli orfani vengono per mezzo mio a chiedervi un'elemosina di 5 milioni». «E si dice che gli orfani sono da compiangere», disse Danglars prolungando lo scherzo. «Poveri bambini!» «Eccomi, vengo in loro nome», disse il signore di Beauville. «Avete ricevuto la mia lettera di ieri?» «Mio caro signore di Beauville, i vostri malati, le vostre vedove, i vostri orfani avranno, se non vi dispiace, la bontà di aspettare 24 ore, dato che il signore di Montecristo, che avete visto uscire di qui, lo avete visto, è vero?» «Sì, ebbene. Ebbene, il signore di Montecristo ha portato via i loro 5 milioni. «Come mai?» «Il conte aveva un credito illimitato su di me, credito aperto dalla casa Thompson & French di Roma, ed è venuto a domandarmi la somma di 5 milioni, tutti in una sola volta. Gli ho dato un assegno della banca, i miei fondi sono depositati là, e voi capirete che temerei, ritirando dalle mani del direttore 10 milioni nello stesso giorno, che la cosa possa sembrare troppo strana». «In 2 giorni, aggiunse Danglars sorridendo, è affare diverso». «Andiamo dunque», gridò il signor di Beauville con il tono della più completa incredulità. 5 milioni a quel signore che è uscito poco fa e che mi ha salutato come se lo conoscessi. Può darsi che vi conosca senza che voi conosciate lui. Il signore di Montecristo conosce tutti. 5 milioni. Ecco la sua ricevuta. Fate come San Tommaso. Guardate e toccate». Il signore di Beauville prese il foglio presentatogli da Danglars e lesse. «Ho ricevuto dal signor barone Danglars la somma di 5.100.000 franchi di cui egli verrà rimborsato a sua richiesta dalla casa Thompson & French di Roma. Conte di Montecristo». «In fede mia, è vero», disse il signore di Beauville. «Ma è dunque un nababbo questo conte di Montecristo?» «A dire il vero non so che cosa sia, ma aveva 3 crediti illimitati, uno su me, uno su Rothschild e uno su Lafitte. E, aggiunse con noncuranza Danglars, come vedete ha dato me la preferenza lasciandomi 100.000 franchi per laggio». Il signore di Beauville manifestò la sua più alta ammirazione. «Bisognerà che vada a visitarlo», disse, «per ottenere da lui qualche donazione per noi». «Oh, è come se l'aveste già. Le sue elemosine ammontano da sole a più di 20.000 franchi al mese. È magnifico! Ma ritorniamo ai nostri milioni». «Volentieri», disse Danglars con la più grande naturalezza del mondo. «Avete dunque molta fretta di ritirare questo denaro?» «Sì, i conti di cassa si fanno domani». «Domani? E perché non lo avete detto subito? Domani è un secolo». «A che ora ha luogo la verifica?» «Alle 2 pomeridiane. Passati a mezzogiorno, disse Danglars con il suo sorriso. Il signore di Beauville esitava, ma faceva segno di sì con la testa e andava voltando e rivoltando il suo portafoglio fra le mani. «Ma ora che ci penso?» disse Danglars. «Potete anche fare di meglio». «In che modo?» «La ricevuta di Montecristo vale denaro contante. Presentatela alla banca Rothschild o alla banca Lafitte e ve la prenderanno all'istante. Quantunque sia da pagarsi a Roma?» «Certamente. Vi costerà solo una ritenuta di 5.000 o 6.000 franchi». L'amministratore fece un balzo all'indietro. «In fede mia, no. Preferisco aspettare domani, come dicevate voi». «Ho creduto per un momento, perdonatemi», disse Danglars con estrema impudenza. «Ho creduto che aveste un piccolo ammanco da colmare». «Grazie a Dio, no», disse il signore di Beauville. «Allora a domani. Non è vero, mio caro signor amministratore? Sì, a domani, ma senza fallo». Il signore di Beauville non era ancora uscito che Danglars gridò: «Imbecille!» E chiudendo la quietanza di Montecristo in un piccolo portafoglio: «Vieni a mezzogiorno», disse. «A mezzogiorno sarò lontano». Il signor di Villefort, parigino puro, considerava il cimitero del Père Lachaise come il solo degno di ricevere le spoglie mortali di una famiglia parigina. Soltanto al Père Lachaise un defunto della buona società poteva essere alloggiato come in casa propria. Il pomposo corteo, partito dal Faubourg Saint-Honoré, si avviava dunque verso il Père Lachaise, quando all'uscita da Parigi si vide arrivare rapidamente una carrozza trascinata da 4 cavalli. Era il signor conte di Montecristo. Il conte guardava attentamente fra la folla, cercava evidentemente qualcuno. Intanto si giunse al cimitero. L'occhio penetrante di Montecristo esplorò tutti i boschetti di tassi e di pini e ben presto la sua inquietudine svanì. Un'ombra aveva strisciato sotto i cipressi neri e Montecristo riconobbe colui che cercava. Si sa che cosa è una sepoltura in quella magnifica necropoli. Gruppi neri disseminati nei bianchi viali, il silenzio del cielo e della terra, rotto soltanto dal rumore dello spezzarsi di qualche ramo, di qualche siepe calpestata intorno alle tombe. Poi il canto malinconico dei preti, al quale si aggiunge qua e là un singhiozzo sfuggito da un cespuglio di fiori, vicino a cui si vede qualche donna inginocchiata, con le mani giunte. L'ombra osservata da Montecristo attraversò rapidamente il sentiero che passava dietro la tomba di Abelardo ed Eloisa e venne a porsi con i becchini alla testa dei cavalli che trainavano il carro funebre e con il medesimo passo giunse al luogo della sepoltura. Ognuno guardava di qua e di là. Montecristo non guardava che quell'ombra, appena notata da quelli che erano vicini. Anzi, due volte uscì dalla fila per vedere se quell'uomo cercasse un'arma nascosta sotto i propri abiti. L'ombra, quando il corteo si fermò, fu riconosciuta. Morrel, con l'abito nero abbottonato fino al collo, la fronte livida, le guance scavate, il cappello gualcito in più punti dalle mani convulse, si era addossata ad un albero sopra di un poggio che dominava il mausoleo, in modo da non perdere nessun particolare della cerimonia funebre che si stava celebrando. Tutto avvenne secondo l'uso. Alcuni uomini, e come sempre erano i meno commossi, pronunciarono dei discorsi. Il conte di Montecristo non ascoltava, né vedeva nulla. O piuttosto non vedeva che Morrel, la cui calma e immobilità erano motivo di preoccupazione per lui, che solo poteva leggere ciò che accadeva in fondo al cuore del giovane ufficiale. Terminata la cerimonia, le persone intervenute ripresero la strada per Parigi. Montecristo si era gettato fra i tigli e, nascosto dietro una larga tomba, spiava ogni minimo movimento di Morrel che a poco si accostò al mausoleo ormai abbandonato. Il conte, con il collo teso, gli occhi fissi e dilatati, le gambe piegate come per balzare al primo segnale, continuava ad avvicinarsi a Morrel, il quale, inginocchiatosi, chinò la fronte fino sulla pietra, abbracciò il cancello con tutte e due le mani ed esclamò: «Oh, Valentin!» Il cuore del conte fu trafitto da quelle parole. Fece un passo e, battendo sulla spalla di Morrel, disse: «Vi cercavo!» Montecristo si aspettava uno scatto, dei rimproveri e delle ricriminazioni. Si sbagliava. Morrel si voltò dalla sua parte con calma apparente. «Vedete?» disse. «Pregavo!» Lo sguardo scrutatore di Montecristo percorse il giovane dalla testa ai piedi e dopo quell'esame sembrò più tranquillo. «Volete che vi riconduca a Parigi?» disse. «No, grazie. Desiderate qualche cosa? Lasciatemi pregare». Il conte si allontanò senza fare obiezioni, ma fu solo per cercare un nuovo nascondiglio dal quale non perdere un solo gesto di Morrel. Finalmente questi si alzò, si pulì i pantaloni dai segni lasciati dalla pietra bianca e riprese la strada per Parigi, senza voltare mai la testa. Il conte congedò la sua carrozza e lo seguì a distanza. Maximilien rientrò a casa e 5 minuti dopo che la porta fu chiusa da Morrel, si riaprì per Montecristo. Thank you. Maximilien si era chiuso dall'interno ed era impossibile vedere al di là dei vetri perché una tenda di seta rossa li copriva. Montecristo ruppe con il gomito un cristallo che andò in frantumi, quindi sollevò la tenda e vide Morrel seduto ad uno scrittoio con una penna in mano fare un balzo sulla sedia al rumore del cristallo infranto. «Non è niente», disse il conte. «Faccio le mie scuse, mio caro amico. Sono scivolato. E scivolando ho battuto con il gomito sul cristallo, già che è rotto, ne approfitto per entrare». E passando il braccio attraverso il vetro rotto, il conte aprì la porta. Morrel si alzò, evidentemente contrariato, e andò incontro a Montecristo più per impedirgli il passo che per riceverlo. Montecristo fece qualche passo nella stanza e Maximilien fu costretto a lasciarlo entrare, ma lo seguì. «Scrivevate?» chiese Montecristo con uno sguardo imbarazzante per la sua fissità. «Sì», disse Morrel. «Con le vostre pistole accanto al calamaio?» disse mostrando a Morrel le armi poste sullo scrittoio. «Parto per un viaggio», rispose Maximilien. «Amico mio», disse Montecristo con voce piena di infinita dolcezza, «non prendete decisioni estreme, ve ne supplico». «Io? Decisioni estreme?» disse Morrel alzando le spalle. «Che cosa trovate di estremo in un viaggio?» «Maximilien», disse Montecristo, «non mi ingannate con questa finta calma. Voi volevate uccidervi». «Bene», disse Morrel trasalendo. «Ma come vi vengono queste idee, signor conte?» «Vi dico che volevate uccidervi», continuò il conte con il medesimo tono di voce. «Ed ecco nella prova». E avvicinatosi allo scrittoio, sollevò il foglio bianco che il giovane aveva gettato sulla lettera incominciata per coprirla. «È scritto», disse. «E allora?» gridò Morrel passando dalla apparente calma a un'espressione di furore. «Quand'anche ciò fosse, quand'anche avessi deciso di rivolgere contro di me la canna di quella pistola, chi me lo impedirà? Dite, signore, dite, avreste voi questo coraggio?» «Sì, Morrel», rispose il conte con voce la cui calma contrastava stranamente con l'esaltazione del giovane. «Sì, io. Sì. Voi!» gridò Morrel con espressione crescente di collera e di rimprovero. «Voi, che mi avete ingannato con un'assurda speranza, che mi avete trattenuto, cullato, addormentato con vane promesse, mentre avrei potuto salvarla o almeno vederla morire fra le mie braccia. Voi, che ostentate una grande intelligenza e una potenza senza limiti, voi che rappresentate, o almeno credete di rappresentare, il ruolo della provvidenza, perché non avete neppure il potere di dare un antidoto ad una ragazza avvelenata. Voi vedrete morire il vostro amico». E Morrel, con il sorriso della follia sulle labbra, si slanciò verso le pistole. Montecristo, pallido come uno spettro, ma con lo sguardo abbagliante di luce, pose la mano sulle armi e disse all'insensato: «Ed io vi ripeto che non vi ucciderete». «Impeditemelo dunque», replicò Morrel con un ultimo slancio che, come il primo, venne fermato dal braccio di ferro del conte. «Ve lo impedirò». «Ma chi siete dunque, infine, per arrogarvi questo tirannico diritto sulle creature libere e pensanti?» gridò Maximilien. «Chi sono io?» ripeté Montecristo. «Ascoltate, io sono il solo uomo al mondo che abbia il diritto di dirvi: io non voglio che oggi muoia il figlio del vecchio Morrel». E Montecristo, maestoso, trasfigurato, sublime, avanzò con le due braccia incrociate verso il giovane che, anelante, ma soggiogato suo malgrado dall'apparenza sovrumana di quell'uomo, indietreggiò di un passo. «Perché mescolate il ricordo di lui a ciò che mi accade?» «Perché io salvai la vita a tuo padre, un giorno in cui egli voleva uccidersi, come oggi lo vuoi tu. Perché io mandai la borsa alla tua giovane sorella e il faraone al vecchio Morrel. Perché io sono Edmond Dantès, che ti cullò sulle sue ginocchia quando eri bambino». Morrel fece ancora un passo indietro,